Carissimi amici e amiche della Terra Sonora e di Radio Alma, vi sto raccontando in questa nostra puntata, la seconda in realtà, dedicata a questa grande cantante Billie Holiday, proprio la storia della sua vita e tutto quello che le è successo. Il 16 marzo del 1948 Billie Holiday fu rilasciata dopo 9 mesi e mezzo di reclusione. Cercò di evitare la stampa e i fotografi tornando a New York. Il suo amico Bobby Tucker, con la quale era stata sempre in contatto, la aspettò alla stazione di Newark. Bobby portò Billie a casa sua, dove viveva con la madre, dove iniziarono immediatamente le prove per il grande concerto previsto a giorni alla Carnegie Hall. Stavano imbiancando il dentro della casa quando noi si arrivò e il pianoforte lo avevano sistemato fuori sulla veranda. Non eravamo ancora entrati che Bobby era seduto al piano. «Non c'è per me al mondo una canzone più difficile di Night and Day», sicché lui disse di provare prima di tutto questa qui, e poi stiamo a vedere che succede. Non mi scorderò mai di quella prima nota, o della seconda, o specialmente della terza, quando dovetti dire «Day» e soffermarmici. La attaccai, la tenni su, e non era mai andata così bene. Bobby per poco non ruzzola giù dal seggiolino, da quanto era contento. Durante i mesi della prigionia, Bobby Tucker diede a Billie una prova di solida amicizia, rifiutando di lavorare con grandi cantanti come Ella Fitzgerald o Sarah Vaughan. La Carnegie Hall era pienissima quel 27 marzo. Tutti i fans di Billie, molti jazzisti e cantanti, più un certo numero di curiosi. I rumori della sua storia con la droga, la polizia e il suo arresto attiravano anche chi non conosceva lei e le sue canzoni. Lady Day tornò sul palco con una grande gardenia bianca tra i capelli. Non volle parlare ed aprì il concerto con I Cover the Waterfront. Away from the city that hurts and mocks, I'm standing alone by the desolate docks, in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. my heart has an ache. It's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfront. I'm watching the sea. Will the one I love be coming back to me? I cover the waterfront in search of my love, and I'm covered by a starlit sky above. Here am I, patiently waiting, hoping and longing. Oh, how I yearn. Where are you? Are you forgetting? Do quel concerto Billy cantò 21 canzoni e fu richiamata da 3.500 persone in delirio per ben 6 volte. La stampa scrisse che mai alla Carnegie Hall si erano sentiti applausi così forti e colorosi. Lei era in perfetta forma fisica, le sue capacità vocali erano al suo meglio. Fu sicuramente un momento di grande felicità, ma presto dovette affrontare un altro problema. Una legge dello stato di New York diceva che chiunque avesse avuto problemi con la droga e la legge avrebbe perso il diritto di lavorare nei posti dove si vendeva alcol. Tutte le porte dei jazz clubs erano chiuse per Billy, nonostante la pena scontata e la sua completa disintossicazione. Nei teatri poteva ancora esibirsi e scelse Broadway per presentare il suo spettacolo Holiday on Broadway, ma il jazz non è nato per essere suonato nei teatri e lo spettacolo, anche se ben accolto dalla critica, ebbe vita breve. Billy ripiegò lavorando in città, fuori dallo stato di New York, dove la stessa legge non era valida, fino al giorno in cui incontrò un altro uomo, John Levy. Era il proprietario dell'Ebony Club, della 52esima strada. Disse a Billy che l'avrebbe fatta lavorare nel suo club nonostante i controlli della polizia. Probabilmente Levy passò dei soldi ai poliziotti che chiusero un occhio e Billy iniziò a cantare indisturbata, con grande affluenza di pubblico ed enorme successo. John Levy iniziò a regalarle dei vestiti costosi, una pelliccia e dei gioielli. Le mise a disposizione una Cadillac con autista e le disse che non doveva avere altra preoccupazione al mondo se non quella di cantare. Poi le comprò una casa e lei si arrese al suo amore. Racconta: mi successe perfino di pensare che una volta o l'altra avrei anche potuto ritrovare la mia felicità, e tanto per cambiare fu un disastro. A poco John Levy prese il controllo totale su tutto quello che Billy guadagnava e sulla sua vita. Lei lavorò a lungo allo Strand Theatre di New York insieme nel programma con Count Basie e la sua orchestra, con una paga di $3,500 a settimana. Levy non le faceva vedere neanche un centesimo, con la scusa che avrebbe provveduto a tutto lui ed esaudito ogni suo desiderio. Billy iniziava ad essere stufa quando la polizia fece irruzione in una camera di albergo di San Francisco. John Levy le gettò allora un piccolo involucro da buttare nel gabinetto. Lei non fece in tempo e fu trovata con dell'oppio in mano. Li arrestarono e poco dopo furono rilasciati dietro cauzione, in libertà provvisoria e in attesa di processo. L'accusa cadde solamente su Billy, che aveva i suoi precedenti e che fu trovata con la droga in mano. Lady Day non aveva toccato stupefacenti dalla sua ultima disintossicazione ad Elderson. Pensò dunque di farsi mettere sotto stretto controllo medico per 2 giorni in una delle migliori cliniche della città. In questo modo avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza al processo, che si svolse nel maggio del 49. Billy vi si presentò con un occhio nero e si ritrovò per l'ennesima volta da sola ad affrontare una corte. John Levy era assente, ma fu moralmente accusato di aver incastrato Billie Holiday, poiché quell'oppio era suo. La giuria andò a discutere di là e a noi ci toccò restare di qua a sudare per altre 2 ore, a fumare, a chiacchierare con i giornalisti e a farmi fare le fotografie. Poi la giuria riapparve e quando il presidente disse non colpevole fu come se avessi finito un concerto. La gente batteva le mani e si rallegrava e mi si pigiava intorno, proprio come nel mio camerino dopo una prima. Parlando di John Levy in quel tribunale, Billy disse qualcosa che lasciò tutti di stucco. Se entrasse ora in quest'aula mi scioglierei, è il mio uomo e lo amo. La loro storia continuò fino a quando Billy scoprì che tutti i debiti che Levy aveva fatto per suo conto erano ingenti. Sempre in California iniziò allora a lavorare per pagare i creditori. Riempì tutti i clubs dove cantò ed ottenne ottime critiche dalla stampa che ormai seguiva le sue vicende pubbliche e private da molto vicino. Dopo 2 anni di lavoro Billy si accorse che i suoi debiti non finivano mai. John Levy sparì dalla circolazione e lei rimase nuovamente sola. Così me ne ripartii per New York, allo stesso modo di tante altre volte, povera in canna come il giorno che sono nata. La storia con Levy finì definitivamente. Billy andò ad abitare in una stanza d'albergo a New York e tornò ad usare l'eroina. Nel frattempo continuava a lavorare molto, viaggiando il paese e cantando con diverse formazioni. Dalla California andò a Chicago, dove aprì a Line Note con il gruppo di Miles Davis. Nel gennaio del 51 cantò a Philadelphia con il suo vecchio amico Lester Young, anche lui in condizioni precarie a causa dei suoi problemi con l'alcol. Cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're going to rise up singing, then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. Detroit, Billy incontra il suo terzo marito manager, Louis McKay. Ogni volta che aveva un uomo sembrava rivivere, i suoi vecchi sogni riaffioravano e si sentiva ottimista. Disse in varie interviste che era pronta ad abbandonare la sua carriera musicale per diventare una moglie con le carte in regola. Nella sua autobiografia parlò dei figli che non ebbe mai. «Sai qual è il mio sogno? È sempre stato quello di avere una bella e grande casa in campagna, proprio mia, mia, e tenerci i cani e i ragazzini». Ragazzini che non l'hanno chiesto di venire al mondo né scelto di essere neri, azzurri o verdi o mezzo e mezzo. Louis McKee e Billy partirono per la California, dove passarono un lungo periodo con l'intenzione di azzerare tutti i debiti rimasti. Qui Lady Day trovò numerosi ingaggi, inoltre il suo contratto con la Decca era arrivato alla fine e ne firmò uno nuovo per l'etichetta di Norman Granz. Fece varie sedute di incisioni e tornò a New York alla fine del 52 per partecipare al 25esimo anno di carriera musicale del Duca, il grandissimo Duke Ellington. Lo storico concerto ebbe luogo alla Carnegie Hall. Billy divise il palcoscenico con le maggiori stelle del firmamento del jazz, come lo stesso Duke, Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Stan Getz. Il pubblico dedicò i suoi più grandi applausi a Billy Holiday e la stampa la osannò. Iniziò ad apparire frequentemente in televisione e avere finalmente un audience più vasta e i riconoscimenti che aveva sempre desiderato. Ma in contrasto a questo, le sue condizioni fisiche iniziavano ad essere intaccate da tanti anni di eroina ed alcol e la sua voce aveva subito col tempo un lento cambiamento. Per quanto metallica, miagolante e fresca fosse all'inizio del suo cantare, suonava adesso più profonda e cavernosa. Il suo timbro aveva perso limpidezza e diveniva più scuro, anche se le sue capacità ritmiche rimanevano straordinarie. Insieme a tutto questo, le sue interpretazioni avevano, ancor più che negli anni precedenti, una vena decisamente drammatica. Il suo senso dell'ironia, che traspariva certe volte anche dalle sue canzoni più disperate, aveva lasciato spazio ad un evidente senso di amarezza. Questa metamorfosi fu in qualche modo inevitabile, ma non tolse nulla all'enorme talento musicale di Billie Holiday, che continuava a sorprendere un pubblico in costante aumento. Into your early life, romance came. And in this heart of yours, burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now. Drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No, sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody's nigh, you cry. Of tomorrow. Nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you missed the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Sophisticated. Questa era un'altra grande interpretazione di Billie Holiday, la canzone Sometimes I Am Happy. Bene, cari amici e cari amiche di La Terra Sonora di Radio Alma, continuiamo la sua storia, l'ultima parte della sua vita. Raccontiamo una vita poetica, una vita incredibile, di grande talento, quella di Billie Holiday. Racconta: non c'è artista negro, penso, che non abbia il pallino dell'Europa. Alcuni ci sono andati e ci sono rimasti. Io, e da quando iniziai a farmi un nome, che questa idea mi ronzava per la testa. Il giornalista jazz Leonard Feather organizzò il tour europeo per Billy ed altre formazioni come il trio di Buddy De Franco e quello di Red Norvo. Partirono nel gennaio del 54. L'aereo atterrò a Copenaghen e Lady Day viaggiava con il suo nuovo marito. Non avevo mai visto tanta neve né un'accoglienza tanto calorosa in vita mia. Centinaia di persone piene di fiori, sorridenti e raggianti, gente gaia, cordiale, più giornalisti e fotografi e tutto il resto. La tournée, dopo 3 settimane in Scandinavia, toccò Berlino, dove Billy riscosse gran successo e rimase sorpresa dalla bravura dei jazzisti tedeschi. Gente, non mi sono mai divertita tanto in vita mia. Quei tipi facevano il più formidabile swing che avessi mai ascoltato. I musicisti americani bisogna che si cavino al cappello. Parker, Ellington e gente come loro e come me sono nati e seguitano a nascere con questa musica dentro. Ma loro dentro non ce l'hanno e devono lavorare, studiare e ascoltare e rilavorarci ancora e arrivarci assudate. Poi il Belgio, l'Olanda e la Svizzera. Un solo concerto a Parigi e alla fine Londra, che riservò a Lady Day un'accoglienza calorosissima. Il critico e giornalista jazz Max Jones la aspettava da tempo e sapeva tutto della sua carriera e della sua vita. Billy fu molto sorpresa dell'attenzione che le dedicarono. Jones organizzò per lei una conferenza stampa e i giornali riportarono fedelmente le sue interviste. Questi europei masticano più musica, hanno intelligenza e hanno orecchio. I sapientoni, le potenze del jazz in America, si accorgono di quel che succede nel jazz 10 anni dopo. Uno non è qualcuno finché non crepa, allora diventi il più grande di tutti. Billy disse che il suo concerto alla Royal Albert Hall di Londra fu l'avvenimento più importante di tutta la sua vita. Cantò 15 canzoni accompagnata da un'orchestra di 34 elementi. Una folla di 6.000 persone l'applaudì forte e Billy riuscì da dietro le quinte per cantare Strange Fruit. Il concerto fu un vero trionfo. Lady Day fu trattata come una vera celebrità e se ne tornò a casa felice. Quello che hanno scritto su di me in Europa mi fa sentire viva sul serio. Nel luglio del 54 Billie Holiday partecipò al primo Jazz Festival di Newport, affiancata da una serie di vecchi amici e da altri grandi jazzisti. Press sono per lei ancora una volta. La loro intesa era rimasta quella di sempre ed i celebri assoli del suo sax tenore si intrecciarono con le melodie e le impennate di Billie. Teddy Wilson, il pianista che l'accompagnò per la maggior parte delle sue incisioni, era sul palco insieme con l'amico trombettista Buck Clayton. Alla batteria c'era Joe Jones, al sax baritono il bianco Gary Mulligan. Ovviamente il successo fu grande e Billie continuò a cantare nei clubs ed incidere canzoni. Fu una delle cantanti che lavorò con il più gran numero di jazzisti. Durante tutta la sua carriera una vasta gamma di talenti, grandi e piccoli, si alternò sul palco e in sala di incisione per accompagnare la sua stupenda voce. I jazzisti adoravano suonare per lei. Se i suoi unici modelli, come Billie affermò, furono Louis Armstrong e Betsy Smith, fu sicuramente Satchmo che le trasmise quel modo di fraseggiare simile a una tromba. Miles Davis disse che Billy non aveva bisogno di una tromba, dato che c'era già lei con la sua voce. I musicisti la trattavano come uno di loro, ammiravano il suo talento istintivo e la tensione creata dal suo fraseggio imprevedibile. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Alma, in particolare in questo momento della Terra Sonora, entriamo nell'ultima pagina del racconto diviso in due puntate, appunto, della Terra Sonora, di una grande voce, di una grande poetessa e di una grande cantante, la più grande forse, Billie Holiday. E parliamo della città di Filadelfia, delle camere d'albergo che non hanno mai portato buona fortuna a Billie Holiday. Nel 1956 fu nuovamente arrestata con suo marito Louis McKee per possesso di stupefacenti. Furono rilasciati presto con la solita cauzione, questa volta aumentata a $7,500 a testa. Billie decise per l'ennesima volta di disintossicarsi. Si ricoverò in una clinica dove trovarono le sue condizioni davvero disastrose. Tornata a casa dopo la cura, per stare lontana dall'eroina, iniziò a bere grandi quantità di superalcolici. Le sue performance continuarono e durante l'estate uscì nelle librerie la sua autobiografia, che vi consiglio, e dalle quali tutti i racconti, le parti appunto con i racconti di Billie Holiday sono tratti, ed è Lady Sings the Blues, scritta in collaborazione col giornalista William Dutty. La sua uscita venne celebrata a New York con un concerto alla Carnegie Hall. Il titolo del libro fu all'origine Bitter Crop, le sue ultime parole della canzone Strange Fruit, ma l'editore cambiò idea all'ultimo momento. Volle chiamata Lady Sings the Blues per motivi pubblicitari. Billie si arrabbiò. Nonostante il suo ormai celebre repertorio contenesse dei blues, Lady Day non era una blues singer. I blues li cantava a modo suo, come fece con il resto della sua musica. Lady Sings the Blues era anche il titolo di una nuova canzone scritta da Billie e Herbie Nichols per aiutare il lancio del libro. Billie continuò a cantare e a viaggiare all'interno del paese, ma era stanca e debilitata. Con la grande quantità di alcol che beveva, spesso riusciva a malapena a raggiungere il microfono e doveva essere accompagnata, ma la sua incredibile forza non l'aveva del tutto abbandonata. Nelle sere in cui si sentiva bene, cantava per delle ore. Le sue performance erano magiche e indimenticabili come negli anni passati. Nel 1957 si separò dal suo terzo marito, Louis McKee, e si stabilì in un appartamento vicino a Central Park, dove condusse una vita solitaria. Lavorò per quanto la sua salute glielo consentì. Trovò un nuovo pianista, Mal Waldron, e continuò le sue incisioni. Billie era molto sola e vedeva poche persone, tra le quali un paio di amiche che l'aiutavano in casa e qualche musicista che le rimase vicino, come il clarinettista Tony Scott. Passava in casa la maggior parte del tempo guardando la televisione. La sua passione erano i cartoni animati. Poteva guardarli per delle ore. Nonostante le sue condizioni, tornò in sala di incisione nell'anno 1958, a febbraio. L'album Lady in Satin, suonato all'orchestra e dagli archi di Ray Ellis, è una testimonianza del suo stato d'animo e fisico. Gli arrangiamenti delle canzoni hanno poco di nero, l'enfasi è sulla sezione degli archi e sui cori inevitabilmente bianchi. C'è una pulizia di fondo che contrasta con l'ormai ruvida e sofferta voce di Billie. All'interno del disco ci sono però due canzoni che Lady Day interpretò in modo magistrale, You Changed e I'm a Fool to Want You. Le appartenevano profondamente, soprattutto la seconda, dove Billie si rende conto di quanto sia folle volere un amore che mai le apparterrà e di desiderare un bacio che anche il diavolo ha conosciuto. Lei prova a scappare, ma non ce la fa. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true, a love that's there for others too. I'm a fool to hold you, such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known. Time and time again, I said I'd leave. Time again, I went away. would need you. And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to warn you. Pity me, I need you. I know it's wrong, it must be wrong, but right or wrong, I can't get along without you. Without you. Lady Day partì per un'altra tournée europea. Non fu fortunata come la prima. A Parigi la stampa scrisse che sembrava stanca ed assente e al Teatro Smeraldo di Milano fu addirittura fischiata. Nel marzo 59 incise il suo ultimo album, Rust Recording, anche questo con l'orchestra di Ray Ellis. Il giorno 15 dello stesso mese, il suo grande amico Lester Young morì in una stanza d'albergo newyorkese in seguito a complicazioni cardiache dovute all'alcolismo. Questo fu un ulteriore colpo per Billy, che aveva diviso con lui una solida e lunga amicizia. Furono molto vicini, senza mai avere una storia d'amore. La sua immagine era ben lontana da quella degli uomini che Billy si era sempre scelta. Il giorno del funerale di Press, Lady disse a un amico: "Next turn is mine." E fu così. Billy Holiday si spense in una stanza del Metropolitan Hospital di New York il 17 luglio del 1959. Era stata ricoverata per cirrosi epatiche e complicazioni cardiache. Uno degli amici che erano andati a trovarla in ospedale aveva lasciato una piccola quantità di oppio sul suo comodino. La polizia l'aveva arrestata ufficialmente, venne fotografata, preso le sue impronte digitali dal letto e misero due piantoni alla porta della sua stanza. Sequestrarono tutto quello che trovarono: fiori, libri, cioccolata e il giradischi che aveva portato con sé. Questa, cari amici di Radio Alma e della Terra Sonora, era la storia di Billie Holiday, la sua grande storia, la sua grande voce. Io vi do appuntamento a una prossima puntata insieme con me, quindi l'augurio di un buon proseguimento con i programmi di Radio Alma da parte di Massimo De Martino. Chiudiamo con Lady Sings the Blues e soprattutto con un racconto che racchiude tutta quella che è forse la grande passione, la grande vita e il grande atteggiamento nei confronti della vita di Billie Holiday. Una sera, quando Billie Holiday era oramai la regina della 52esima strada e la gente si accalcava per vederla, stava passeggiando col suo amico pianista Joe Springer, mentre qualcuno passando la salutò. "How are you doing, Lady Day?" Lei scoppiò in una delle sue risate e rispose: "Well, you know, I'm still a nigger." E cioè: "Come ti va, Lady Day?" "Beh, sai, sono sempre una negra." Lady sings the blues, she's got them bad, she feels so sad and wants the world to know just what her blues is all about. Nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart when you get start, when you and your man have to part. I ain't gonna just sit around and cry. But now the world will know she's never gonna sing them no more. 'Cause the blues ain't nothing but pain in your heart when you get a bad start, when you and your man storia di Billie Holiday, Lady Day, a Radio Alma, alla Terra Sonora. Alla prossima.